Vangelo di San Luca, capitolo sedicesimo. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: «V'era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni. Ed egli lo chiamò e gli disse: "Che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi essere più mio fattore". E il fattore disse fra sé: "Che farò io? Da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non son buono, a mendicare mi vergogno, so bene quel che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua". E chiamati quindi a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: "Quanto devi al mio padrone?" Quello rispose: 100 bati d'olio. E gli disse: "Prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto, 50. Poi disse ad un altro: "E tu quanto devi?" E quello rispose: 100 cori di grano. E gli disse: "Prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza. Poiché i figliuoli di questo secolo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più accorti dei figliuoli della luce. Ed io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando esse verranno meno, quelli vi ricevano nei tabernacoli interni. Chi è fedele nelle cose minime è pur fedele nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è pure ingiusto nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nell'altrui, chi vi darà il vostro? Nessun domestico può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona". Or i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Ed egli disse loro: "Voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quel che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, ma da quel tempo è annunziata la buona novella del regno di Dio, ed ognuno v'entra a forza. Più facile è che passino cielo e terra che un apice solo della legge cada. Chiunque manda via la moglie o ne sposa un'altra commette adulterio. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio". Or v'era un uomo ricco, il quale possedeva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: "Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma". Ma Abramo disse: "Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato, e oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passar di qui a voi non possano, né di là si passi da noi". Ed egli disse: "Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento". Abramo disse: "Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli". Ed egli gli disse: "No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvedranno". Ma Abramo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i profeti, non lasceranno persuadere neppure se uno dai morti risuscitasse".